Esatto. We will shut the fuck up. Vai. Potete fare quello che volete, io vi ho descritto la situazione. Io dico, voglio cercare sto Devin che se ne è nascosto da bravo codardo. Adesso, lo scontro è finito, dai, vieni fuori. Non sembra essere da nessuna parte. Tana libera tutti. Bastardo. Io intanto Naya mi ha tirato su, giusto? Sì, hai Adesso. una Sì, manciata sì, ai sì. punti vita. Ok, allora un po' distrutto dalla vita, Done si tira su comunque e a questo punto, cioè, credo che riesca a scavalcare le macerie per Sì, entrare sì, sì. nella casa e appunto si fa, cioè, ovviamente inizia, poi tutto bene e poi si ferma vedendo Zan Zan e va subito da lui. Non Il credo Adone. Vai. corpo parzialmente ustionato di Zanzan giace a terra. È rigido e una marea di detriti sono conficcati nella sua pelle, che il suo intero corpo è coperto dai detriti e dal sangue. Non c'è alcuna traccia di vita su Zanzan. Adone gira a guardare Gideon in silenzio, cercando di vedere qual è la reazione sua in questo momento. Aspetta. Gideon anche si avvicina al corpo e... Cioè, anche solo a vederlo è proprio morto morto. Non è che... è fraintendibile. Non penso. Pjanic? Sì, Zanzan non ha nessuna reazione, è proprio completamente andato. Ok, quindi non ha senso controllargli il battito o qualcosa. Nel senso, No, no, quello che no. senso. Ok. Cioè, è proprio... Puoi toccarlo, ma non c'è proprio nessuna reazione vitale. È anche già... Si è già raffreddato, diciamo. Passati 20 secondi, com'è possibile? Sì. Dimmelo tu. Niente, Gideon lo guarda, è triste per un momento, ma dopo prende un respiro e... si compose, non mi viene la parola in italiano, si Compone. ricompone. Quanto è isolata la casa rispetto a tutto il resto? Abbastanza, c'è una casa vicina, ma anche quella sembra essere abbandonata e prima di quello avete camminato per una mezz'oretta o forse un quarto d'ora dalla vostra villa, che era già isolata rispetto al resto. Dalla villa non muovevate... L'esplosione realisticamente non ha allertato nessuno. No, già Coso, già Batu, ci sta che non abbia sentito l'esplosione. Minchia, ok. Perché era, cioè, a 20 Madonna. minuti di camminata. Qualcuno mi può aiutare? I'm literally... Cioè... Oh, l'inchiude. Aspetta, non so... Fammi un No. secondo, lui. E volevo vedere un attimo cosa facevate, Nel perché sono... senso, Perché ho sono... l'adrenalina... Mi è appena passato il rush di adrenalina. Sento il sangue nelle orecchie e ho tipo in una mano questo coso con cui ho appena tirato tipo mezza magia, che non so che cazzo era, un tunnel di fuoco che mi ha anche mezzo ustionato e c'ho un feto nell'altra mano e c'ho un cadavere davanti a me. Sto per svenire, Il cadavere è letteralmente. sparito, Sto cioè proprio... ci sono i vestiti Cadavere del sparito. cadavere. L'ho No, di visto. Zanzan Dice. Ah, ok, io Sì, pensavo anche dicesse il dell'altro cadavere di tizio. Zanzan. Ok, Don in ok. A questo chi? C'è momento. qualcuno che mi può venire davanti che glielo do così mi accascio un attimo a terra? Lo chiedi? Sì. Mi vedi che sono tipo. Ti lascio un attimo la No, roba, tipo. No, è che adesso Adone è concentrato su Zanzan, quindi... Gideon? Eri? Aspetta, Boh. anzi... A Erendor non gli lascio assolutamente nulla. Adone Veramente non sta due robe. guarda nella tua direzione comunque e vedendo come sei raggiunge anche te perché ha paura che a sto punto muori anche tu da un momento all'altro e... e ti si avvicina, non sapere bene cosa dire, cerca di fare una frase ma non riesce e ti offre solo una mano, cioè visto che sei affaticato ti offre di tenerti. Ti lascio l'oggetto e tengo il feto tipo e mi accascio sul muro. A casa allora abbiamo la macchinetta per curare, per caso? Sì. Carica al massimo. E allora me ne esordisco che forse sarebbe il caso di incamminarci. Ne possiamo discutere una volta nella villa, curati e eccetera. Forse è meglio tornare. Naya ancora fuori, prima, cioè vede Adone che va e Akei all'accanto e gli chiede un attimo come sta, mentre si indirizza verso dove stava andando Adone. Vai pure dagli altri, io sto bene. Mi riprendo un attimo. Vai, vai, Candy Queen. Che porco. Che il muro è distrutto, poi passa. No, dal... E adesso... No. Da sud, non... no, devi fare il giro, okay. E quando oltrepassi il muro finalmente vedi quello che resta di Zanzan e di Eidos a 5 metri di distanza l'uno dall'altro, e Naya corre verso Zanzan e con Bright Hands, cioè, non può funzionare, perché l'exp l'ha ricevuto prima, quindi non... E Naya prova comunque a mettergli, tipo, l'unguento che cura le ferite, che cicatrizza e è in shock. E il risultato che vede Naya e che vedono tutti è lo stesso di applicare l'unguento a... una carcassa, una fetta di carne, un pezzo di una coscia di pollo, cioè non c'è nessuna reazione visibile se non ungerlo. Io mi avvicino a KL e gli chiedo: senti, dov'è il tuo amico? Non è che è finito quel codardo? La vedi che sta guardando in una direzione, nella mappa sta guardando indietro, cioè verso la strada, poi si gira di scatto e dice: credo si sia nascosto, appena sarà sicuro che non ci sono problemi verrà fuori. Va bene. Lei chiede ad alta voce, con le mani che tremano, cos'è successo. Cioè non lo chiede una persona in specifica, è lì che continua a fissare Zanzane e cercare di capire se può fare qualcosa. E chiede appunto ad alta voce cosa è successo. Adone guarda Ivan Gideon con la stessa faccia scioccata. Sostanzialmente. Cos'è successo? Gideon guarda Erindor. Come fai a vedere dietro il muro? No, è per quello che non stavo rispondendo. Ma fin dove è distrutto il muro comunque? Solo questo lato qua. Cioè questo muro qua esiste. Ah. Allora niente. Ivan, cos'è successo? L'esplosione ci ha preso tutti quanti. Naya alza lo sguardo verso Ivan e va. Zanzan era troppo vicino. Zanzan era troppo vicino. Adone guarda a terra tenendo in mano l'oggetto. Cosa volevi fare, Rox? E volevo, cioè Ivan mi sembra, cioè fra tutti quelli che vedo chi sembra quello messo peggio? Perché Gideon mi sembra che non abbia Erindor e Adone pari. Gideon è ferito non, ma non in modo grave, quindi Adone è quello messo peggio. Ivan sta bene? Ivan sta, cioè è ferito ma meno di Adone. Okay. Io Adone Ivan e ha un sacco di danni superficiali, diciamo. Ok. E Naya ti dà una pozione. Adone, Naya ti dà una pozione, perché non ha un cazzo d'altro di magico che può usare, quindi di 6. Adone... devo farlo io? Sì. Sì. Oh, ok. Adone la prende, ti fa un cenno con la testa e la vedi che la beve tenendola con la mano che trema. Okay. 5. Sei quasi full. E mentre Ivan ha dei danni diversi rispetto agli altri. No, è solo pieno di graffietti e taglietti. Però cioè ne ha tantissime, tutto rovinato, diciamo. Okay. Non ferite gravi e profonde. Cioè... sì. Ok, però mi sembra abbastanza sotto shock. E... sì, più sotto shock che non. Non mi sembra messo bene. E Naya si avvicina e ti chiede se può metterti un unguento sulle ferite. No. Voglio soffrire. No, risparmia l'unguento. Sto bene. Ma sei sicuro? Sì, sì. Sì, tutto bene, tutto bene. E cos'è quello? Vedo che cosa sta tenendo. Sì, sotto ogni punto di vista sembra un organismo non completamente formato. Ha una testa molto grande e sproporzionata e un corpicino che non riesce a descrivere in modo più accurato di così. Ha quattro arti, ma non sono definiti, cioè sono ancora non formati. A che mese siamo, tecnicamente? Non hai le conoscenze necessarie per descriverlo, nell'anno del signore 1622. No, a me Rox, per poterlo immaginare e capire, okay. Veramente. Primo trimestre. Io mi alzo e comincio ad andare verso la strada, tipo per tornare verso la casa. Okay. Naya ti ferma per il braccio e ti chiede che cos'è quello. Cioè, non con tono accusatorio, ma preoccupato, cioè terrorizzato. Non ne ho idea. So solo che... da dove viene? So solo che si sta raffreddando e quindi dobbiamo andare a curarlo. Cos'è? Non lo so. Ivan, da dove viene? Era e poi c'è questo e me l'ha lasciato in mano e ora è così e continuo ad andare. Si gira verso Gideon e gli chiede di che cosa sta parlando. Non ne ho idea. Scusa, la carcassa di coso è scomparsa, cioè l'unica cosa che è rimasta di... Ok. E questa cosa qua. Ok, giusto per chiarezza. Piuttosto, l'artefatto che dovevamo prendere? Adone, penso che ce l'hai tu. Scusatemi. Adone, appunto, lo sta tenendo in mano e ve lo... mostra un attimo. Credo, direi che è questo. Beh, meglio, direi che è meglio che torniamo alla casa prima che qualcuno si accorga di cosa è successo qua. E Zanzan? Dobbiamo curare Ren. Forza. Sbrighiamoci. Adone sospira, guarda Ivan, cioè guarda Zanzan, ma... poi si mette dietro Ivan. Ok, e quindi... mentre andiamo, continua a guardare dietro. Vi ricongiungete con Keyel ed Erindor, quindi se devi interagire con loro fallo ora. Adone catatonico. Madonna. Io faccio... tecnicamente io ancora non lo so che Zanzan è morto, giusto? Sì, l'hai visto come? No, tu l'hai... ah, ok, l'hai è vero, stavo sparando. Ok, niente. Che bollo! Io che ti devo dire? ne discutiamo a casa, potete dire quello che volete, è meglio che ne discutiamo a casa, adesso non è il tempo né il luogo. Naya chiede a... ma no, nessuno sta parlando adesso. Ah no, ok, non so, vi passate così tranquilli. Ma non sappiamo che sei stato tu, noi. Ah, è vero. Rick, metti nel contesto. A posto, a posto. Perché non, cioè, certi di noi non sanno che c'è tutto il... Naya, mentre stiamo uscendo, chiede a Gideon che fine ha fatto Eidos. Cioè, nel senso, lo capiamo, che cazzo è successo, porco Dio. Beh, cioè, gli ha sparato... Si riusciva a vedere? Non lo so quanti detriti e robe c'erano dall'esplosione. Bianic, cioè io... Sì, te lo sto chiedendo. Ok. Io qui da fuori la casa dopo l'esplosione riuscivo a vedere qualcosa di cosa è successo? Durante l'esplosione non hai visto niente. Quando è finita l'esplosione hai visto il corpo di Zanzan e poi quello di... Aidos che si alzava dalle macerie. Ok, ma ho visto che come l'hanno ammazzato. Sì, hai visto che alla fine è stato Eriksdor. Esatto. Dopo altri due o tre turni di botte. Sì. Scusami. Ma l'ha visto anche Naya. Pensavo stessi dicendo in cara. No, Naya era dietro il muro. No, Naya era dietro. Ah. Allora gli dico cosa è successo. Non dice niente. Aggiungo, da qua gli ho fatto saltare la testa, il corpo è svanito e non è quello, è quello che ne è rimasto, indicando quello che è in mano a Ivan. No, ce l'ha in mano a Dore. E no, il feto, dicevo. Ah, scusami, pensavo dicessi, pardon. Sì, il feto ce l'ha in mano a Ivan. Ditemi se volete fare qualcos'altro. Lo vedo messo male. Sì, peggio di Adore. Lo cura. Con? Gli do una pozione. Ok, un altro di 6. Non te lo meriti. Lo guarisci di brutto. Ah. Posso portare al medikit il feto? Dovete camminare fino alla... Dobbiamo ancora arrivare, sì, scusa, avevo capito che eravamo arrivati. Riesco a captare qualcosa dal feto? Cioè, mi hanno appena detto che Eidos D10. E il feto sono collegati, quindi sono tipo... Che cazzo sta succedendo? Vai, Naya. Dimmi, fai un D10 anche tu, per favore. Non hai una definizione corretta di quello che puoi dire dal feto, ma è malvagio. È l'unica cosa che riesci a percepire dal feto. E... Adone, invece, stai tenendo in mano questa cosa, che è impossibile da descrivere, sembra una proiezione in tre dimensioni di un oggetto in n dimensioni formato da anelli fatti da scritte, quindi proprio una roba incomprensibile, un angelo biblicamente accurato senza le ali. E a un certo punto hai tipo un sesto senso e ti senti bruciare le mani. Mi fermo un attimo e lo appoggio a terra. A terra? Quando lascia le tue mani a terra, voi lo vedete che è come se fosse una sfera trasparente con dentro questi anelli, e quindi a terra non toccano gli anelli. Okay, sfera invisibile, se preferite. Ti senti, Adone, come se tutta la tua energia magica fosse stata prosciugata nel momento in cui lo lasci. Puoi descriverlo agli altri come vuoi. Se provo a castare Every Talk. Quanto costa? Costo 1. No, cioè, se sento che se... No. Se tu casti una spell e scendi a zero di fatica, il cast va e poi perdi i sensi. Ok, quindi no, sono in questa situazione. Cioè, puoi se provarci. Lo facessi, ti verrei... dico... T'avviso, perché se lo fai e vai a zero... Adone... dice... L'artefatto mi ha prosciugato la magia. Ora l'artefatto è a terra davanti ad Adone. Io faccio notare che ho i guanti e allora forse è il caso che lo porto io. Naya ti dà un'altra pozione del cazzo per... Dove sei? So se c'hai quelle per la fatica. Sì, ce l'ho tutto. Qual sai? Sì, non so se sia il caso di darlo a... Non so se sia il caso di darlo ad Adone, però come vuoi. Sì, gli recuperi Adone... più di fatica. Dice... Non credo che... Aspetta, questo c'è il miele. C'è il miele, sì, che... Sì, se vuoi dargli il miele va bene. Recupera il mana. Ok, gli do un miele. Dai, allora, a caramelline al miele. Letteralmente sì. E recuperi l'energia magica, ma è comunque la sensazione che... tutta l'energia dai tuoi muscoli sia stata drenata. Ok, scusami un secondo. Mi sento proprio affaticato. Sì. Che è una cosa che ti succede quando casti le spell esagerando. Certo. Adone prova a riprendere in mano l'oggetto. Non senti assolutamente nulla. Hai l'oggetto in mano. Adone a questo punto dice... qualsiasi cosa abbia fatto, mai l'ha già fatta, quindi è meglio che lo tenga in mano io. Ok. Evitiamo che siate così sfiniti anche voi. E intanto lo osserva, cioè Adone lo vorrebbe... Ah. Beh. Sì, però io ormai l'ho già rollata questa cosa, quindi come cazzi vuoi. Miei. No, no, ormai l'ho rollata, non posso andare avanti e indietro sempre, quindi Adone se la tiene in mano e andiamo sì, avanti. Con... Intanto ha preso la caramellina di... Può... Sì, lei può capire che cioè non ha mai visto una roba del genere, che cazzo è? 10. Dio. Dio cane maledetto. Dai, Naya. Hai detto bene, non hai mai visto nulla del genere. Non sembra provenire da questo mondo. Suppongo che quello sia l'artefatto che cercavamo? Direi proprio che di gira più. Verso gli altri e... K.L. Dove cazzo è? K.L. dice... Devin è sparito e K.L. dice se sembrerebbe l'unica cosa strana abbastanza da essere quello che cercavamo. Se solo ci fosse chi ci ha mandato qui per prenderlo. Tu sai che cos'è? Chiede a K.L. Ho un'idea, ma non ne sono sicura, quindi condividerla? Preferisco di no per il momento. Penso che siamo nella situazione in cui anche le idee vaghe più che ben accette. So che non... Mi ricorda una vecchia leggenda di qualcuno che aveva rubato qualcosa a un mostro e lo aveva portato in un altro mondo. Exile. Mi ricorda qualcosa? Particolarmente? Vuoi rollare un D10 di cultura? Negli ultimi 2 minuti di vita io, che ti restano. Io sì. Vai. Beh. Non vedo il tuo roll, ho sentito un rumore, ma non l'ho visto. Dai, è quella di Adone. Ah, ok, 3. Non mai sentita sta storia. Posso provare anch'io? Sì, vai. Un altro di 10. Ehi. Sì, è 19. Grande Naya. Madonna. 19 è buono, ma considerando chi è Gideon e tutto, non è sufficiente per darti una risposta completa, quindi ci giro un po' intorno. Quando hai ricercato la situazione di tua sorella, per fartela breve, sei andato a cercare nel profondo cosa potessero essere tutte le robe strane che la riguardano. C'erano tante leggende. La maggior parte erano proprio stronzate, tipo la donna che rimane incinta di un fulmine, mette al mondo quattro animali, cose del genere che non hanno nessun senso. Però ce n'erano alcune che invece sembravano più allegorie, metafore per dire attento a quello che fai perché poi devi gestire le conseguenze. Una di queste leggende era appunto la storia di un uomo che aveva ingannato, non si capisce se la morte, il diavolo, un dio, una roba del genere, e aveva rubato una parte del corpo di questa entità e grazie a quella cosa aveva scoperto il fuoco. Questa è la leggenda che ti ricorda. La storia che ha detto Keyel. Nella leggenda in questione non c'era una descrizione di questa parte del corpo. Si diceva che era veniva da un altro mondo e quindi quello può essere coerente, però non veniva detto nessun dettaglio di questo oggetto. Ok, allora dico anche agli altri che mi ricorda quella leggenda, senza dire niente sul contesto di mia sorella o altro. Scusami. Quindi camminiamo. Lei è abbastanza da cioè non ha molto da dire, è abbastanza tipo I guess. Mi fai un altro di 10, Adone? È già passato abbastanza. So, farò uno. Ma anche mi porto Adone su un minuto. Ma madonna. Fategli ciao con la manina. No, no, no, Bianchi, no. Cosa succede? Cosa con la manina. Bene. Ciao ciao. Ma no, cosa succede? Quello che stringi tra le mani è il cuore in fiamme. È l'artefatto. È una parte del corpo della creatura che avete visto nella centrale. Ora, tu dici, come faccio a saperlo? Non c'è modo che io possa sapere questa cosa. Ce n'è uno, nello specifico, un modo molto preciso in cui hai scoperto questa cosa, ed è che hai assorbito il fottutissimo artefatto. Ti è entrato dentro il corpo, è parte di te. E questa è la prima parte, è quella che sarebbe anche ok. La seconda parte è che cadi a terra, questo poi lo descriverò agli altri, che è quello che vedo da fuori, e da questo momento in poi hai delle allucinazioni, nel senso che stai avendo delle visioni terribili, perché non è il mondo reale quello che c'è intorno a te. Vedi che tutto si scioglie, si liquefà come fosse fango, e al loro posto vengono fuori delle strutture meccaniche, ingranaggi e cose del genere, che formano ogni cosa intorno a te. All'interno di questa follia meccanica, metallica, c'è una creatura che al momento sembra un soldato in armatura nera, ok? Annerita più che nera, ok? Cioè coperta di fuliggine. Ha un buco nel cuore, ok? Una bella cavità nel petto, e la parte inferiore del suo corpo è formata da tentacoli oscuri, non si capisce cosa sia, è buio. E la creatura ha un braccio molto più grande dell'altro, non so se è rilevante, te lo dico e basta. E finalmente ti parla e dice: hai preso il suo cuore e ora me lo devi dare. Adone è terrorizzato. E dice, ok, so di chi ho preso il cuore oggettivamente. Cioè, mi hai appena detto che so che è il cuore della creatura che c'era nella centrale, ok? Scusami, quindi oggettivamente ho il cuore di quello senza il cuore? Sì. Adone è terrorizzato e sai cosa? Gli dice: in che modo te lo dovrei dare? Lo dovrai portare al mio corpo terreno, in modo che la comunione possa avvenire definitivamente. Quale comunione? Quale corpo? Quello tra il mio cuore e il resto del mio corpo. Così potrò tornare completo. Non, ma non so dove devo andare, cosa devo fare? Aidos, il demone che fino a poco fa vi stava tormentando, si divertiva a prendermi in giro, a mostrare a destra manca il mio cuore e usarlo per i suoi sporchi servigi. Ora tu andrai dal mio avatar e gli porgerai il mio cuore, così che io possa tornare completo, finché non è in grado di ribellarsi. E se non ci riuscissi? Morirai. Non ti Cosa? preoccupare. Alla fine morirete tutti comunque, quando avrò la mia vendetta. Scusami, è che Adone è terrorizzato in questo momento, non so come farlo reagire. E a questo punto dice, chi sarebbe il tuo avatar? Promezia! In quel momento ti svegli, cioè ti riprendi da sta cosa. Partito in quarta a picchiarlo prima che potessimo avere un piano, se Quello permetti. che avete Di quanto visto, sei morto? è Adone cadere a Ah, quello terra che con abbiamo le visto. convulsioni. Ah, Quello avete ok. visto, sì, avete visto questa cosa. Adone che cade a terra con le convulsioni e che trema come se avesse un attacco epilettico per un paio di minuti. Cioè, dura relativamente poco questa cosa. Ditemi cosa. Nel frattempo, ecco, l'oggetto che aveva in mano viene assorbito dal suo corpo. E vorrei che mi diceste cosa volete fare. Lei vuole provare a curarlo, sistemarlo, vuole fare un check di teurgia per capire se che cazzo se è stato È maledetto o stato simile. definitivamente maledetto, non c'è bisogno di fare un roll. Riesco a capire se Expel Evil. Vuoi provare a fargli Expel Non sono tentatissimo, o sto vedendo, cioè, come lo assorbe? Che cazzo significa? Evil? È un oggetto che non ha senso nel mondo reale, quindi semplicemente gli anelli a una certa gli attraversano il corpo. Ma è dentro il corpo, Sembrerebbe ovviamente. di sì. Beh, se io ipoteticamente lo squarto, vedo quella sfera. Sembrerebbe, cioè, è dentro, quindi ora non lo sai. Cioè, Ah, no, lo vedi devo. traslare. Ah, ok, proprio traslare. Sì. Si Ok, muove in modi impossibili. Prego. magari non squartarlo. Vabbè, era Ma magari lo era caga fuori. un pensiero intrusivo. Una Esatto. Ah, metafora. quindi Dobbiamo controllargli la cacca nei prossimi giorni per vedere Sto se esce. avendo le convulsioni, non aspetta. vorrei Sì, dire. esatto. Posso aiutare sto povero Cristo, Bianic, ti prego, dammi una mano. Non Vuoi so più che fare cazzo posso fare e Expel non fare. Non voglio fare Expelliarmus, voglio che smette di avere le convulsioni. Posso buttargli addosso una delle Evil? altre Vuoi cazzo di castargli 25 smettere di pozioni di avere le merda? convulsioni? Non credo tu abbia quella spell. Sì. Secondo me la posso Immagino a lei che superare. inizia a lanciargli pozioni e unguenti addosso e lui continua a fare. No, vabbè, però. Fai Expelliarmus, penso che sia la cosa più sana. Ma poi stai zitto tu! Ma stai zitto! Uccidilo tu se devi uccidere, non dire a me cosa cazzo devo fare. Posso dargli un'altra pozione? Al tizio con le convulsioni? Dio porco, non sono un dottore io, va bene? Io, Ox, non sono un dottore in questo Roxa aveva iniziato momento! sta campagna Scusami se non so dicendo: non farò esattamente. come Navia. Cos'è che fa Navia? Prendere 4 ore per fare un turno. Allora, ti sto chiedendo assistenza per evitare di metterci 4 ore. Le cose che ho Sì. nell'inventario, una di quelle può aiutarlo. Ok, grazie, bastava così. E giro Adone così non si morde la lingua e non si uccide con le Ok, vedi convulsioni. che continua però a tremare, a essere posseduto, direbbero in un'altra epoca. Carina questa. Alta. Qualcun altro, qualche mi faccio le nefria verso Gideon e gli chiede se può aiutare a calmarlo con la sua magia che ha usato su di Naya. Non è un le convulsioni non sono una cosa emotiva e io non tocco qualcuno che ha appena assorbito qualunque cosa, una cosa che li ha fatti stare così. Stesse regole della corrente elettrica. Chiedo a Kiel se ne sa qualcosa. Ne so quanto voi. Andy, ti odio, che cazzo stai facendo? Lascia fare! Ti porco. Naya, vieni, venimi incontro, per carità di Dio. Con Expel Evil, cioè, Naya riesce a capire se Expel Evil lo ucciderebbe o meno in questa situazione? Cioè... No. Riesce a capirlo, devi farlo e vedere cosa succede. Expel Evil c'ha sia la versione che gli spari un cazzo di fulmine sia quell'altra. E quella che non gli spara un cazzo di fulmine, esatto. Quella che lo esorcizza dal... Vai, facciamo sta cosa, proviamo, Dio porco, mi spiace. Se muori è Dio cane. Devi rollare 2 di 8. Con vantaggio? No, no, perché riduce la difficoltà del test di 2 di 8. Ah... Alternativa possiamo far rollare a Debbie. No, oh. Medio, letteralmente valore medio. E Eddie, mi rolli un 10. Questa memoria la giochiamo oggi, Vianic, cioè sei felice? No, dai. Oh, dai. Non serve che avete fatto 19, la difficoltà era 15, quindi l'avete superato, anche senza fare il stalking. E vedete che Adone si riprende da questa cosa qua, stringendosi e urlando... Puoi urlarlo, per favore? Promezia! E la sfera viene ejectata dal suo corpo in alto e inizia a scendere come se ci fosse la gravità bassissima. Okay. Naya urla a tutti quanti di allontanarsi e sposta fisicamente tutti quanti da sta merda e si allontana pure lui, Dio porco. Io c'ho i guanti, io sono sicuro di poter... Non me ne fotte un cazzo, Erido! Stai lontano dalla sfera maledetta! Nessuno ti obbliga. Esatto. Detto in modo molto più educato. Anzi, andiamo in ordine. Adone, ti sei appena ripreso, quindi direi che... sono fermo, sì. Cioè, no, fermo. sono d'accordo. Kiel fa 2 passi indietro, per buona misura. Vorrei sapere cosa fa Ivan, che ha un feto in mano, giusto? Cosa vuoi fare? Io do il feto a Gideon. Perché? Io faccio un passo indietro. No, tienilo. Con il feto. That's so new. Tienilo, per favore. E mi chino a prendere la... Dai, qualcuno si prende questo cazzo di feto. Ti chini a prendere... Mi chino a prendere... No, prendo the orb. Ok, l'orb... Dai, fa... lo sposta! Ci si lancia addosso! Lentamente è ancora in alto. L'ha proprio sparato un paio di metri in alto, quindi sta scendendo. Listen, il mio ragionamento... Okay. Allora, sì. Out of character, però il mio ragionamento è... Prima non mi ha fatto nulla. Ok. Tu non ti ha fatto nulla. Vorrei sapere cosa fa Gideon. Ha fatto un passo indietro e ora sei... T'ha convinto a prendere il feto? No. Ok. Quindi hai fatto un passo indietro e basta. Naya? Hai preso il feto? Naya va... No! Naya non ha preso Get il feto. Fuck. Naya sta correndo ad aiutare Adone e... Ok. No, ma aspetta, mi stai... Ivan ha sia il feto che l'orb. Non ha ancora l'orb, ha solo il feto e si sta avvicinando per prendere l'orb. Naya si butta su Ivan e dice ti prego non farlo. Ok. Oddio, non gli si butta addosso, cioè... No, lo prendi, gli dici non farlo, per favore. Non mi ha fatto niente prima. In che senso non ti ha fatto niente? Ce l'avevo in mano, non mi ha fatto nulla. L'ho usato, ma non mi ha fatto nulla. Forse è meglio non rischiare, forse proprio perché l'hai usato, si è caricato e... Dobbiamo portarlo a Ren. Con calma, Ivan. Una cosa alla volta. controlliamo prima Adone e decidiamo assieme sul da farsi. Erindor. Ti urlo contro. Ed è la prima volta che urlo. Io faccio fuori. Dobbiamo andare. Faccio prendi questo feto. Di Terziga e Gode, lo provo a prendere io. Cioè, finire Ginna. Cioè. No? Cazzo, lasciami finire la frase. Ah, no, sì, hai detto Erindor. No, non ti ho neanche sentito. Non ti ho neanche sentito. Ti urlo contro. Prendi questo coso. Dobbiamo andare a salvare Ren. Lo dobbiamo a Zan. Lei ha prendere il feto. Ok. E quindi c'ho Erindor e Ivan che stanno cercando di prendere la sfera. Vabbè, se la vuole Ivan va bene, però vediamo. Ok, quindi lasci che la prenda Ivan. Al momento sì. Ok, hai afferrato la sfera. Vediamo cosa succede. Io, già la seconda volta che dico che ho i guanti, che è probabilmente meglio, ma vabbè. Bene. Adone, ti sei ripreso. Cioè, hai avuto quella brutta sensazione, quella brutta cosa. Però ora sei in pieno controllo delle tue facoltà, a parte il fatto che ti ha di nuovo prosciugato completamente l'energia. Fa un cazzo tuo adesso, però. Cioè... Adone si alza e lo vedete chiaramente, visibilmente scosso e si gira, si guarda un attimo attorno e quando vede Ivan tenere in mano la sfera dice: non toccarla, è pericolosa. Gideon chiede a Adone cosa ha visto. Quello è il cuore. È il cuore della creatura nel nucleo. Wow. Quindi abbiamo un cuore di Dio. Perché con te ha reagito in quel modo e con Ivan no? Mi viene a dire che usa la magia come fonte di nutrimento. Non ti senti la mano bruciare, Ivan? Mi sento la mano bruciare? Non particolarmente. Senti un piacevole tepore venire dalla sfera come quando l'hai afferrata la prima volta. Io continuo ad andare verso... cosa? Questa casa. Ok, quindi Iva sta facendo strada. Siete quasi arrivati. E dico soltanto, io non ho nulla di magico. Non mi può fare male. Adone guarda Naya e gli altri un po' spaventato. Però a sto punto... Segue, fucking guess. Lei chiede a qualcuno se qualcuno può prendere il feto. Eh no, la stai in mano tu. Cioè. Non io. Esatto. Palla avvelenata. E beh, è un cazzo di feto demoniaco, scusami. Cioè. Naya vede Erindor che ha i guanti e dice: forse è meglio se lo tieni tu e te lo lascia in mano. No, non me lo può lasciare in mano. Io ho detto: no, mi allontano. Te lo lascia in mano. Non può perché mi allontano. Te lo lascia in mano. Ho deciso che uso la mia memoria per lasciarti in mano il feto. Dammelo qua, Naya. E no. Lo prende Adone. Ok. Credo che se magari Adone ha un fazzoletto, lo copre con un fazzoletto, se lo tiene. Sì, ci sta. Naya, mentre te la dice, non ha senso che sia ancora vivo. È vivo il feto? Che sembra... Non... È vivo il feto. Sembra? Non sembra morto. È facile essere vivi quando non si è umani. E guarda il feto un po' di spiego. Ivan ti dice... scusa, Adone, se... passato l'oggetto. Non pensavo che ti potesse fare del male. Ok, rola un di 10, Gin. Aia. Porco Dio. Volevate la sfera di merda di un porco. Aspetta che ho perso. Ok, roll 20. Ok. Ciao Gin, ci vediamo dopo. Ci vediamo tra 30 secondi. Ma prima voglio sapere un giro di quello che volete fare. Andate verso la casa tutti? Sì. Benissimo. Ivan ha la convulsione e cade a terra. Andiamo subito un attimo in sotto, Gina, fra poco. Che bello, eh? No, dai! Sì, invece è proprio divertente. Oddio, cane. Senti che la sfera prosciuga tutta la tua energia magica, or something, quello che è. Anche se non ne hai, quindi prosciuga la tua voglia di vivere, la tua energia, e hai delle allucinazioni, cioè mentre ti accasci a terra inizi a tremare, vedi tutto il mondo intorno a te liquefarsi e trasformarsi in una specie di inferno meccanico, cioè tutte le cose sono fatte di ingranaggi, di parti meccaniche, di cose del genere, e a un certo punto in questa scena sovrannaturale la sfera viene assorbita dal tuo corpo, come è successo ad Adone prima, però ora lo stai vivendo in prima persona, che è diverso. E davanti a te, in questo nulla, compare una figura che sembra un soldato in armatura, nero, vestito, cioè annerita, l'armatura sembra coperta di cenere, e ha un buco nel petto, ok? Un grosso buco nel petto. Una delle sue braccia è molto più grande dell'altra, e la parte inferiore del suo corpo è formata da tentacoli neri, sembrano. È buio, quindi non riesce a discernere bene le forme. Aspetta un attimo. Sì. Me lo sto scrivendo. Tentacoli, hai detto? È difficile capire cosa siano, ma sembrano tentacoli neri. Nella parte inferiore del corpo? Sì, a partire dalla vita in giù, invece di avere le gambe, ha queste cose qua. E ha un elmo, un buco nel petto, un braccio molto più grande dell'altro. Basta, a fine delle cose che riesce a vedere nel buio. Okay. Malenia. Un pochino. Okay. E ti parla con una voce rauca, sovrannaturale, eccetera. E dice: proviamo di nuovo. Hai preso il mio cuore e ora ti do la possibilità di non morire immediatamente. Devi consegnarlo a quello che resta di me in questo mondo. Eri tu nel nucleo? Ero io. Quello che resta di me. Chi ti ha fatto questo? Promezia. E non è il momento di discutere sulla sua natura o su cosa stia facendo adesso. Ho solo bisogno che tu ricongiunga il mio cuore con il mio corpo. Se poi lei muore nel processo, è tutto di guadagnato. Come facciamo? Come faccio a farlo? Devi solo raggiungere il luogo dove si nasconde. È dove Eidos si recava ogni sera nel tentativo di prendermi in giro e tentare di tenerla in vita. È lei, Promezia? È lei. Nella cattedrale. Credo che il nostro dialogo sia concluso. Posso fare un roll per sapere se mi sta mentendo? Non ti sta mentendo, non serve fare un roll. E sembra che cioè, tu hai preso qualcosa da lui e lui ha preso qualcosa da te. È come se avesse preso la possibilità di fare qualcos'altro. O meglio, hai la sensazione che se non fai quello che ti dice succederà qualcosa di brutto. La scena finisce qua, se non vuoi dire altro. Dico altro. Ok. Eccoci. E questa volta Ivan la gestisce meglio la situazione rispetto ad Adone. Si accascia a terra, trema e dopo qualche secondo si rialza. Ah. E poi si fletti i muscoli e si rialza. Vedete che ha una strana luce nel... Mi sentite? Sì. Vedete che ha una strana luce negli occhi Sono e basta, per il resto è l'Ivan di prima. L'orbo è entrato? È entrato, è dentro di lui. Nea usa Expel Evil, kill yourself. Vuoi impedirglielo? Ivan? Mi sta facendo del male, sto coso? No, non ti sto facendo. Ah, io No, no, cosa? nel senso è questo corpo che dentro di me mi sta. Oh, no. Sto bene. Nea ti chiede che cosa sta succedendo e come stai. Bene. Riesco a capire se è sincero quando dice di stare bene, non posseduto. Non lo so neanch'io. Mi giro verso gli altri e dico, non sono posseduto. È quello che Paura direbbe una persona che posseduta. E poi non soprattutto sei a. abbiamo bisogno dell'orbo per curare Ren. Naya ti dice, come facciamo a curare Ren se l'hai assorbito? Per adesso torniamo a casa e poi troveremo un modo per poterlo fare. Posso fare il Questo. vibe check emozionale per sapere se è Non ti ok? faccio Quanto è rollare, non stabile? è mai stato così tranquillo. È Ok. perfettamente in controllo. This is Posso dire weird. che è terrificante, sì, cioè. C'è gli occhi a faro. Ok. Ho un'altra scena fuck it up e poi possiamo anche chiuderla. Finalmente siete arrivati alla stramaledetta casa, con la stramaledetta cupola magica che evita che la gente entra ed esca, dalla quale siete immuni. E davanti alla Fallo, fallo, cupola, dove piace. Vai, chi c'è? dovrebbe esserci Batu in attesa, c'è una Chi c'è? di quelle creature meccaniche, uguale al vescovo, Oh no. che vi guarda, si lancia all'attacco come per squartarvi, come fanno le creature, vede Ivan e si inginocchia, Oh oh. inclinando il capo. You are not beating the possessed allegation, temo. Cos'è quella risata? Risate di Jin, non di Ivan. You are Ivan would Esatto. never. Adone parla subito a Ivan e dice: hai accettato il patto? Quale patto? Non è un patto. Non era un patto. Lei vi chiede Ok, quale non è. patto? Siamo un po' confusi qua. Hai parlato con quella creatura, con quell'entità, giusto? Sconcertante la tranquillità, ti giuro. Adone dice: quindi vuoi riportare il cuore? Dobbiamo? Gin, dove ti No? posso scrivere per... cioè, meglio Discord o meglio Telegram? Meglio Telegram. Vai. A questo punto Adone parla a tutti e dice: quando prima ho toccato quell'artefatto, ho avuto una visione. Ho parlato con. Scusami, Bianice, oggettivamente la creatura non si è presentata. Perfetto. Assolutamente mi sembra di no. Ho parlato con qualcosa. E vuole che riportiamo l'artefatto, mi ha chiesto di riportare l'artefatto al suo avatar, ovvero Promezia. Gira verso di voi tutti. Quale delle 18? No, vabbè. E poi guarda Ivan. Intenda quella alla centrale. Ma... quindi tutta sta cosa Naya dice... aspetta, stai zitto. Naya dice, ma quella che... Zanzan ce l'aveva detto che l'aveva che l'aveva rimpiazzata, che l'aveva incenerita. Sì. E Naya lo dice. Quella che era nel nucleo è stata portata all'inceneritore da Zanzan. Non c'è più un corpo a cui portarlo. Ivan a questo punto. Cosa hai detto? Io preparo lo strumentopolo misterioso. Vedete Ivan che squadra Erindor ti chiede di dargli dei componenti che hai nella borsa. Dei componenti specifici che hai nella borsa, che non hai mai rivelato di avere. Ovvero? L'Electron Dust e alcuni pezzi metallici. Cioè, gli basta un'unità di Electron Dust e di polvere di ferro. Sono un po' scosso, questa. Cosa ci devi fare? Un po' wary, proprio. Ivan. Devo costruire un'apparecchiatura per guarire Ren. Come? Questi sono componenti basilari? Come fai a costruirci qualcosa? Sì. Sì, no. Sono molto abile. No. sono un alchimista e sono abbastanza certo che questi non sono elementi che puoi combinare per ottenere qualcosa di... così. Chi sta parlando? Esattamente quello che sto facendo. Vabbè. Per favore, dammi gli strumenti. Va bene. E gli do gli strumenti. Descrivo io o descrivi tu il resto, Gina? No, descrivi tu, io. Ok, vedete? Okay. E di nuovo non sta battendo le possessed allegations che Ivan smonta la bilancia che c'è all'entrata della casa. Vi ricordate che c'era una bilancia, la piastra pressione? Ok, la smonta e tira fuori dei pezzetti da questa cosa qua. Poi entra dentro la casa, senza accendere le luci, tira dritto verso la apparecchiatura per guarire. Se state seguendo Ivan, vedete che smonta l'apparecchiatura, prende dei pezzi specifici da questa apparecchiatura, si mette su un tavolo e nel giro di 3-4 minuti compone un oggetto che sembra una siringa, fatto con tutti questi oggetti che ha ottenuto, e ha fatto delle reazioni chimiche velocissime, cioè ha combinato i materiali in modo da creare delle mini esplosioni, mini reazioni, quindi fumo e roba del genere, e ora ha una siringa in mano. E hai creato lo strumentopolo misterioso, distruggendo la bilancia e l'apparecchiatura che guarisce la gente. Lo scheletro è tornato a farsi i cazzi suoi? Lo scheletro è rimasto in ginocchio, fuori. E noi siamo in casa in questo momento. Sì. Questo se l'abbiamo seguito. Oh. Io sto seguendo Ivan, cioè... Vabbè, anche io, gli aveva preso la roba di dosso. Gli ho dato la roba, però sì. Voi altri? Vado dallo scheletro e gli chiedo il consenso comunque. No, allora, lo scheletro realisticamente è fucking Batu. Per caso non fosse stato chiaro. Ah. Ok, Ren è nella sua stanza a dormire. Se vuoi... Sorry, non avevo capito questa cosa. Okay. Okay. O comunque qualcuno che era lì. Ah, yeah. Vado... Perché vabbè, è fuori dalla camera. Vado da Ren allora. Ok. Insieme a Ren c'è Carl che appena ti vede dice ho capito tutto e se ne va. Ho capito tutto e se ne va. È quello che ha fatto. Voglio ha fatto... benissimo. E rimane è in stanza... lui che sta vincendo questa campagna. Erindor poteva farlo e ha scelto di non farlo. 3 volte. E Ren è a letto, tesa, cioè praticamente deve avere la febbre altissima, sta sudando, è proprio sdraiata quasi in coma e quindi non è in grado di darti il consenso per un cazzo di niente, te lo dico in maniera elegante. Allora glielo dico, gli tengo il polso e mi siedo un attimo sul letto e gli dico, ti spiegheremo tutto dopo che sarai guarita. Ok, quando appoggi la punta di questa siringa al suo polso, insomma, una parte del suo corpo, voi vedete da lontano un flash, proprio una scarica di luce, come elettrica, diciamo, e la siringa riempirsi di una sostanza granulosa, colore ottone, dello stesso colore dello scheletro fuori. E Ivan, che la sta tenendo in mano, senti che il suo peso sta aumentando in maniera drammatica. Cioè, quando è alla fine peserà 30-40 kg la siringa. È una cosa che non ha nessun cazzo di senso. È un affare così e pesa 40 kg. Ok, no, è per chiarire sempre i dettagli. E quando hai finito, Ren si alza in piedi, proprio scatta in piedi, una cosa che non faceva da giorni perché era meccanica, cioè, era rallentata dalla trasformazione. Riprende fiato e dice: cos'è successo? Ah, ha io mi avvicino a funzionato. Naya e dico, usa Expelliarmus su Ivan. Io sussurro. Naya tentenna e ti dice. Li sento che stanno Secondo me no. dicendo. Ho sussurrato proprio vicino a Naya. Naya ti dice, se ha una cura non possiamo farlo adesso. Ma è già qua. Pensa a Kayelle e a Batu. E a tutti gli altri. Sento quello che stanno dicendo. No. Dammi ancora un Adone si secondo, vai. sposta e dice, non c'è più nulla da fare, però va bene. La siringa è piena fino all'orlo, tra l'altro, vi dico anche questo dettaglio qua. Ma aspetta, non ho capito, la siringa l'ha usata per inserire o estrarre? Estrarre. Tra l'altro non c'ha una cosa di vetro, ok? Quindi questa sostanza che ha raccolto rimane al suo interno sfidando la gravità, visto che è granulare. Naya ti chiede cos'è successo, Ivan. Questo l'hai sentito. Sì. Tiro un sospiro fortissimo e dico a Ren che Zan è morto. Ah, ignori me, sai Madonna, che proprio così la schiaffo, cazzo. porca tua. Stai scherzando? No. Naya dice no. Com'è possibile? Se non potevate uscire di qua, com'è morto? Per trovare Lei è una ancora sotto cura. contatto, vero? Quindi dici che Ivan stava per ucciderla? Ah. Naya Non ci ho pensato, dice, scusate. no, tranqui per questo che sto. E Naya dice, è meglio se non ne parliamo. Ren ti viene molto vicina, ti spinge praticamente, ti dice: non prendermi per il culo, non puoi fare così. Chi lo sta dicendo? A Naya. E Naya è distrutto, cioè penso che glielo possa leggere in faccia che non sia contento della situazione, che sia estremamente serio. E se prima stava evitando di guardare negli occhi, adesso la fissa negli occhi e dice, Zan è morto, però siamo riusciti a salvarti. Interviene Kael, che si mette fra voi due e dice: fidati. Parla tentennando Kael e dice: fidati, non ti possiamo dire altro, ma si è sacrificato per te. e a questo punto Ren, in maniera molto umana, cade in ginocchio e si mette a piangere. Lea prova a consolarlo. Il fottuto feto in mano! Sì, non è che gliel'hai proprio fatto vedere di brutto, eh. Tu no, certo, ma il medkit l'ha rotto! Meno male, volevo dire. Posso trovare un modo per rifare il medkit? Sì, per farlo dovresti smontare l'oggetto che hai in mano. Posso farlo in sicurezza? No. Ma poi, cioè, stiamo avendo questa situazione, scusate, non penso, scusate, che tu adesso sei tipo il feto. No, infatti. Però Adone effettivamente realizza, c'ha un feto in mano e... Il mio obiettivo era quello di curare Ren. Naya si alza, cioè è lì che sta tipo pattando Ren, comunque sta provando a dare un po' di comfort, se lo accetta, cioè nel senso se lo scansona, se ne va a scrivere a cazzo. E alza lo sguardo verso Ivan e ti chiede proprio quello che hai fatto. Puoi spiegarmi i dettagli così possiamo farlo di nuovo per gli altri? He cannot. Quindi se non può, lo dice? Aspetta, ma... No, ti ho detto che non può. Ivan ti dirà quello che vuole, però... Ma cosa vuole dire? Solo un secondo, per favore, sto... Ok, sì, sì. Non posso farlo, purtroppo. E la siringa pesa 30 kg, hai detto? Sì. Ha dentro tutto il materiale che abbiamo... cioè che... Sì. Che si è sviluppato. Sì, sì, sì. Come un tumore sulle sue ossa. Lei ti chiede com'è possibile. Cioè, com'è possibile che tu sia riuscito a creare questa cosa? E ti chiede se è parte del patto che hai fatto con il cuore. Sì. Quindi sicuramente... Sarebbe meglio parlarne lontano da Ren di questa cosa. Mi sono dimenticata io sto giro. Kiel dice solo: ho una brutta sensazione quando sono vicina a Ivan, quindi se non vi dispiace rimango qua con Ren. Si potrebbe spalleggiare Naya per fare un expellivo. Expellior Res. Posso capire se stai emanando roba magica o che cazzo stai succedendo a Ivan? Ivan, Naya. Cioè Naya controlla... Senza che rolli. Mi senti? Dimmi se mi senti. Ti sento, cosa ho fatto di sbagliato? Senza che rolli. È la prima volta che vedi qualcuno maledetto in maniera così blatant. Madonna, è proprio full on possessed. Cioè è proprio la definizione da libro di maledizione. No, allora aspetta, possessione e maledizione sono due cose separate. Sì, diciamo che una implica l'altra. Nel senso che Ivan è Ivan, ma c'è anche qualcos'altro oltre a Ivan in Ivan. Diciamo che posseduto non è una cosa in cui Naya crede. Cioè non crede alle possessioni demoniache, eccetera. Al limite... Lo vedrebbe come un'infezione, cioè tipo... Ma nemmeno, cioè una possessione demoniaca non esiste. Quello che gli sta succedendo è letteralmente come se avesse una strana maledizione molto potente su di lui. E sul fatto di essere possessed sembra un side effect di questa maledizione. Ok. Poi, ti ripeto, tu non credi all'esistenza delle possessioni demoniache perché non credi all'esistenza dei demoni. Esistono delle magie che creano delle forme di mind control. Non sembra questo il caso, ma sembra... dimmi tu cosa vuol fare Naya. Allora, Naya sta rivalutando un attimo tutta la cosa del Dio non Dio. Cioè, nel senso, da full on non esiste niente, adesso è più un... non so più in cosa credere, quindi, cioè... Non dice è posseduto, però capisce che c'è qualcosa che non ha senso con quello che conosce e che possibilmente ha a che fare con tutto quello che non conosce, che è molto vaga come cosa. Ci sta. E l'altra cosa che volevo chiederti era appunto, cioè, quindi è l'opposto della magia sacra, cioè diciamo così. Sì, un buon modo per vederla. No, cioè se la magia sacra lo vede come un più, questo è un meno. Di brutto, sì. Ecco, ritorniamo così. E... se devi parlare di cose segrete qua, se devi parlare di robe che devono sentire anche loro, andiamo giù. Dimmi te. Penso che sia tutto, non so se okay. Volevi dire... Okay, no, no, no, no. Scusateci. La okay. Memoria. Cos'è che hai detto, Rox? In che senso la memoria? Hai usato la memoria? Sto scherzando! Nel senso dello humor un po' suo. Scusate. Ok. Che cosa vuoi fare? Interazione, non mi ricordo più. Come? Stavi guardando siete Ivan. Usciti dalla stanza lasciando KL insieme a Ren e voi siete fuori, a quanto ho capito. Sì, ok. Ne ti chiede più dettagli su quello che hai fatto, su cosa è successo e... Ma in modo preoccupato, cioè nel senso, lo vedi che tipo... Fra, what the fuck? Cioè nel senso, è proprio... È preoccupato, ti sta chiedendo cosa è successo esattamente. Aspetta un attimo. Ok. Chi mi sta ascoltando, tra parentesi? Tutti, credo, tranne gli NPC. KL, ok. Sì, sì, Ren, KL sono lì. Carl, quando vi ha visto, ha fatto... ed è andato in un'altra stanza. Non pensavo che... mi facesse qualcosa lo strumento, l'uovo. Ma ho parlato con quello che era dentro il nucleo. Promezia? E mi ha detto... No, non è promezia. Ti ha dato un nome? Non mi ha dato nome. Era... Mi ha detto che mi avrebbe aiutato per guarire Ren. In cambio di cosa? E lo dovevo a Zan. In cambio del mio aiuto. Dobbiamo portare questa cosa. Questo strumento che porto dentro, dobbiamo portarlo di nuovo a lui, è il suo cuore. E Naya è speechless e ti dice, ma Zanzar mi ha detto che ha bruciato il corpo di quello che abbiamo visto. Mi ha detto che dobbiamo portarlo da Promezia. Quale? Che Promezia? La principessa. What? Io cane in alta troia. Credit. Sì, questo era un buon momento per chiudere la Mic sessione. Drop. Questo era un bel momento. Cioè, non credo che andiamo più in alto, però ditemi voi. Ti dirò, c'è il cliffhanger. Sono 11:30. Sono anche 11:30. Non ho nient'altro da dire, raga. Cioè, questo è quello sì, che sì, mi sì. ha detto. Vogliamo chiuderla qua? Dai, chiudiamola qua, chiudiamola in bellezza per non cagarci sopra.